Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, oggi in diretta da Bologna, dove si è aperta l'edizione biennale di Autopromotech. Poi ne parleremo, riguarda tutto l'indotto del mondo dell'automotive italiano, che non è fatto solo di pezzi finiti, di auto finite, ma di componentistica. Noi continuiamo a esportare per decine di miliardi all'estero la componentistica italiana dell'auto, e poi l'assistenza, la manutenzione, tutto ciò che ruota attorno all'auto una volta che viene venduta. Un settore che complessivamente registra 1.200.000 addetti, se prendiamo tutto l'indotto. Ne parleremo tra un attimo, perché sono usciti oggi i primi rapporti con, va detto e anticipato subito, dei leggeri ma decisi, ma inequivocabili segnali di ripresa anche in questo comparto, che moltissimo ha sofferto negli anni scorsi. Prima di arrivare però al tutto l'indotto e al settore dell'automotive nel suo complesso, le altre notizie, gli altri temi. Ci occuperemo, come promesso, di scuola, visto che è passata al Senato la riforma della scuola e sono stati approvati anche gli altri articoli, penso all'articolo 10 del disegno di legge che prevede il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per 100.000 precari e il periodo di prova di un anno per i precari assunti. L'approvazione due giorni fa dell'articolo 9, quello famoso della chiamata diretta agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, che avranno la possibilità di effettuare la chiamata diretta per alcuni insegnamenti, non per quelli di ruolo, degli insegnanti dei propri istituti. Già ieri molto abbiamo detto della nostra personale posizione su questo, ossia che non capiamo le resistenze su questo tema, meglio invece concentrarsi su chi valuterà poi la gestione dell'istituto da parte del preside o del dirigente scolastico. Su questo il governo ha fatto sapere che ci sono anche dei soldi in più per gli ispettori, ma sostanzialmente evocare il potere di satrapo, di dominus del dirigente scolastico solo perché si introduce una parziale possibilità della chiamata diretta, a nostro avviso significa di fatto bocciare ogni possibilità per cui la scuola venga gestita in maniera manageriale, che non è una bestemmia, ma è semplicemente una scuola che punta più al merito e alla qualità di quanto non riesca a fare adesso, premiando gli insegnanti bravi e penalizzando, se si può usare questo termine, e penso che si possa usare, gli insegnanti meno bravi e meno produttivi. Solo attraverso questo passa un miglioramento della scuola, tutto il resto sono resistenze di chi nel merito vede una penalizzazione, ma il problema a noi interessa poco conoscere le resistenze di alcuni insegnanti, sindacati che vedono nel merito una penalizzazione e vorrebbero di fatto il mantenimento dello status quo. A noi interessa quello che sarà poi la formazione dei futuri italiani, futuri lavoratori, in un mondo che al suo esterno è altamente competitivo, ma adesso vi arriveremo, e che non può essere più paragonato al mondo degli anni Ottanta, con la concorrenza che arriva dagli studenti, quindi dai giovani dei paesi emergenti. Comunque vi arriviamo, non voglio tornare adesso subito sulla parte polemica, andiamo anche sui mercati intanto, che oggi sono poco mossi. Francoforte è sostanzialmente invariata, l'America anch'essa invariata, la borsa milanese più 0,21% in una giornata in cui l'euro sul dollaro è a quota 1,10 e 9. Per quello che riguarda i titoli, in positivo ST Microelectronics più 2,12, Exor più 1,80% e Fiat Chrysler più 1,20, dopo i buoni dati di ieri sulle immatricolazioni auto anche del gruppo Fiat. Chrysler a livello europeo ha doppiato la media di mercato, un più 13,8 contro un più 7 del mercato complessivamente dato. Enel più 1,30, Pop Milano più 1,20, Mediolanum più 1,14, Luxottica più 1 come Tod's. Fronte opposto invece, Monte dei Paschi perde in maniera pesante il 5,80%, Azimut cede il 4,80, Autogrill il 2,20, Snam l'1,30 come Prismian, l'1,20 lo perde Atlantia e anche Terna, l'1,1 il calo di Unipulsai, l'1% quello di Ferragamo. Gli altri temi, dicevamo appunto, la riforma della scuola da un lato, la multa, la maxi multa, già vi accennavo nei nostri GR24, che è stata combinata a UBS, Unione delle Banche Svizzere, dagli Stati Uniti, multa da 545 milioni di dollari, in realtà più che una multa è un patteggiamento, nel senso che si cercava di arrivare a un accordo. Il patteggiamento tra il colosso bancario svizzero e le autorità americane per la vicenda della manipolazione dei cambi, il famoso mercato dei cambi ci occupa molte volte, è una multa che supera il mezzo miliardo di dollari. È la prima di una raffica di multe che le autorità americane si apprestano ad annunciare nelle prossime nei confronti di diverse grandi banche di Wall Street. Altro tema di carattere internazionale, che però è interlocutorio, riguarda la Grecia. Allora, per quello che riguarda la Grecia, oggi il partito del Premier Tsipras, e quindi Syriza, ha fatto sapere che Atene non rimborserà la tranche di 300 milioni al Fondo Monetario il prossimo 5 giugno. Non ci sono fondi per rimborsare l'enorme prestito del Fondo Monetario perché il governo punta a pagare stipendi e pensioni ma non i creditori. Ora, tra il 12 e il 19 giugno sono in scadenza altre tre rate del Fondo Monetario, dei prestiti del Fondo Monetario fatti alla Grecia, per un valore complessivo di 1 miliardo e 200 milioni di euro. Questo non vuol dire che la Grecia sia già tecnicamente in default, in fallimento, insolvente, perché si aspetta di capire se nel prossimo vertice di Riga dell'Eurogruppo arriverà poi un accordo, il che potrebbe sbloccare risorse e finanziamenti e permettere alla Grecia di pagare e quindi di non entrare nella zona dei paesi tecnicamente insolventi. L'annuncio di oggi va letto come, diciamo, l'avviso di quello che capiterà se non si arriva a un accordo a Riga, e quindi la Grecia, diciamo, non potrà contare su altre forme di finanziamento. Secondo la stampa internazionale, soprattutto ellenica, domani il premier greco Tsipras presenterà ai leader europei, appunto a Riga, il piano per la ristrutturazione del debito. E mentre da Bruxelles fanno sapere che le cose si stanno muovendo, che la Grecia ha presentato delle proposte molto concrete sulle pensioni, sulla semplificazione dell'IVA, del mercato del lavoro, Moody's però fa sapere che le prospettive delle banche greche sono assolutamente negative e c'è il rischio di una crisi di liquidità, cioè di un congelamento dei depositi. Questo se da domani in poi non si arriva a un accordo. È chiaro che è tutto fatto sul filo di lana e anche il Consiglio della Banca Centrale Europea sta discutendo la liquidità di emergenza delle banche greche, perché la Banca Centrale Greca avrebbe chiesto a Francoforte di poter aumentare di ulteriori 1 miliardo e 100 milioni di euro la disponibilità della liquidità di emergenza. Ripeto, tutto è condizionato al raggiungimento di un accordo. Per quello che riguarda invece i temi di casa nostra, oltre alla riforma della scuola che è passata alla Camera, oggi è uscito l'Istat e l'Istat ci ricorda che l'occupazione è tornata a crescere nel 2014 per i lavoratori più anziani, con 320.000 occupati in più che hanno più di 55 anni. Continua a calare per i più giovani, con una contrazione soprattutto per chi ha meno di 25 anni e meno di 35 anni. È il rapporto annuale dell'Istat, chiaramente la fotografia è tutta sul 2014. L'Istat dice, e ci fa anche sapere, che sono residenti in Italia 4.800.000 stranieri che, scrive l'Istat, rappresentano sicuramente una risorsa per il paese come il nostro, caratterizzato da invecchiamento e bassa fecondità. Sottolinea poi l'Istat, lo fa lo stesso presidente Alleva, che i migranti sono spessissimo disposti a svolgere i lavori per i quali l'offerta dei cittadini italiani è scarsa. E poi l'Istat dice, attenzione, il mezzogiorno, cioè il nostro sud, è da molti anni assente nelle priorità delle policy e quindi delle politiche dei governi che si sono succeduti. La dimensione del problema è tale, continua l'Istat, che se non si recupera il mezzogiorno le dimensioni di crescita e di sviluppo che si stanno registrando nel resto del paese, non potranno che essere tutta l'Italia e tutte le prospettive di sviluppo dell'Italia ne resteranno penalizzate, come ha ricordato ai microfoni della nostra Alessandra Schepisi. È un tema molto grande e abbiamo verificato che, a prescindere dalle analisi basate su partizioni amministrative o altre, emerge fortemente come un elemento di grande divario. Il divario si sta allargando e abbiamo indicato l'importanza di politiche non una sola direzione, ma congiuntamente una direzione del capitale materiale, sociale, per ripristinare condizioni di fiducia tra i cittadini e le imprese, e nella parte dell'amministrazione, e quindi in una classe dirigente che si basi su una programmazione in cui sia possibile valutarne i risultati. Il lavoro insieme al mezzogiorno è il tema che emerge comunque come elemento critico nel Paese. Appunto il presidente dell'Istat, il quale sul 2015 conferma che si è aperto con segnali positivi, lo fa sempre al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Ci sono numerosi segnali, evidenze di una chiusura della fase di stagnazione, lunga recessione, e in particolare abbiamo molti elementi positivi per quanto riguarda la ripresa degli investimenti, che sono il tema fondamentale per avere una forza necessaria per uscire da questa crisi. C'è un clima di fiducia da parte delle imprese e dei consumatori. In questo dato del PIL del primo trimestre crediamo che troverà conferma nei trimestri successivi. Allora, altro tema che continua a agitare il dibattito in Italia è quello delle pensioni, o meglio del rimborso delle pensioni. Dunque, Renzi oggi, il premier Matteo Renzi ha confermato che la flessibilità nell'uscita, la regola della flessibilità da introdurre sull'età pensionabile con un possibile piccolo ritocco sulle pensioni, verrà studiata. Ha detto Renzi, la prima regola però è non facciamo casini. I ricorsi serviranno solo a dare soldi agli avvocati, dopo che gli sindacati hanno fatto sapere, che lo ha detto per esempio il segretario Barbagallo, segretario della UIL, che ci saranno milioni di ricorsi dei pensionati. Il bonus, ha continuato Renzi, rispetta infatti perfettamente la sentenza della consulta. Con la nuova indicizzazione, ha continuato invece il ministro Padoan, oggi ospite, il ministro dell'economia di Radio 24, a Mix 24 con Giovanni Minoli, ha detto: attenzione, con la nuova indicizzazione, quella che scatterà dal 2016, gli aumenti saranno permanenti, e poi ha continuato, però attenzione, quando si tira in ballo la dignità dei pensionati, bisogna considerare che negli anni di crisi ci sono state altre fasce di popolazione che hanno perso di dignità e hanno perso la dignità perdendo il lavoro, e poi ha ribadito che sulle pensioni è stato fatto il massimo possibile, e se vi dovessero essere ricorsi li vedremo, ma ha confermato la giustezza della linea del governo. Non dimentichiamoci che nel 2011 l'Italia era veramente sull'orlo del baratro finanziario e che negli anni di recessione profonda come quelli passati le pensioni sono aumentate, quindi ad essere onesti ci sono altre fasce di popolazione che hanno perso più dignità. E quindi lei non pensa di aver tolto dignità ai pensionati con questa decisione? Assolutamente no. Innanzitutto perché i pensionati a pensioni più basse sono rimasti intoccati, quindi stiamo parlando delle pensioni medio-alte, che nel caso alto non sono state reinserite nel meccanismo di indicizzazione. Certo, quelle però sono escluse direttamente. Sì. Però le pensioni medie hanno ricevuto risorse che prima non si aspettavano. Ecco, ma e voi nell'ambito del fatto che rispettiamo i conti pubblici e quindi evitiamo di togliere altre risorse per altrove, le spese per il futuro. Senta, ministro Padoan, ma voi avete messo nel conto tutti i ricorsi che ci saranno? Ci saranno molti ricorsi. E come li affronterete? Vedremo i ricorsi e naturalmente noi riteniamo che la nostra linea sia quella giusta, perché tiene conto degli interessi generali del Paese. Ecco, per esempio, non si poteva rateizzare per tutti come diceva Cardinale? Guardi, abbiamo fatto il massimo possibile nei vincoli di bilancio compatibili. Ricordo a tutti naturalmente che se noi avessimo speso un po' di più di quello che stiamo facendo adesso, saremmo con ogni probabilità entrati in contrasto con le regole europee, che ci avrebbero comportato tagli di risorse molto maggiori di quelli che adesso sembrano essere. Allora, la la vicenda Whirlpool, già il nostro GR24 vi ricordava e vi citava le dichiarazioni di poco fa del ministro Guidi, ministro dello sviluppo economico, che ha definito inaccettabile la nuova uscita di Whirlpool. Gli esuberi salgono a 2060 con un piano di ristrutturazione praticamente su 6.700 dipendenti, 2060 sono gli esuberi, 1.430 nelle fabbriche, 150 nella ricerca e sviluppo e i nuovi 480 nell'amministrazione. La definisce irresponsabile il segretario generale della FIM, ma inaccettabile il ministro Guidi. Staremo a vedere, perché il tema della Whirlpool è un tema assolutamente incagliato, dove forse si è arrivati anche un po' tardi. Il governo è molto seccato dalla posizione che sta prendendo il gruppo. Visto che parlavamo però delle pensioni, al tema delle pensioni sono dedicati oggi 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, quelli che vengono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. La firma è del vice direttore del Sole, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Il tema delle pensioni continua a tenere banco. Da qualche ora è disponibile, in realtà è ancora una bozza, il testo del decreto legge approvato lunedì, che consente di conoscere i criteri e gli importi utilizzati per la restituzione ai pensionati delle somme dovute per effetto della sentenza della Corte Costituzionale. Oggi però l'attenzione di tutti è rivolta alle prospettive future del sistema previdenziale. Renzi ancora ieri ha ribadito la necessità di rendere più flessibile la riforma Fornero, cioè consentire ai lavoratori di andare in pensione prima dei limiti di età fissati dalla legge, che sono almeno 66 anni e 3 mesi, un po' meno per le donne, oppure 41 anni di contributi versati. La questione verrà affrontata con la legge di stabilità, che dovrà anche indicare la copertura finanziaria, perché anticipare la possibilità di pensionamento comporta un costo per le finanze pubbliche. L'ipotesi più credibile al momento è quella indicata in alcune proposte di legge fatte da esponenti della maggioranza, che consentono di andare in pensione a partire da 62 anni di età con almeno 35 anni di contributi, accettando però un taglio dell'assegno, dalla cui entità, alcuni parlano del 10%, per altri non sarà meno del 20%, dipendono due cose fondamentali: da un lato la convenienza per il lavoratore ad anticipare la pensione, e dall'altro lato il costo totale dell'operazione per le casse dello Stato, sapendo che sul rispetto dei saldi di finanza pubblica l'Europa non ci farà nessuna concessione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Andiamo verso la pubblicità. Mi chiedete ancora due cose sulle Ferrovie Nord. Guardate, non anticipiamo quel poco invidiabile appuntamento della top 5 degli sprechi a danno dei contribuenti che abbiamo collocato il venerdì per riuscire a dare anche un po' di organizzazione. È chiaro che le dimissioni di Norberto Achille, presidente delle Ferrovie Nord, accusato di aver creato un danno in 7 anni quantificato dal PM Giovanni Polizzi in 600.000 euro, peculato e truffa aggravata le accuse, tra cui 125.000 euro di multe prese dalla famiglia di Achille e scaricate sulle Ferrovie Nord, l'utilizzo della carta di credito aziendale per andare al ristorante in Versilia, alla discoteca Twiga, 900 euro, addirittura poi ha fatto molto scalpore la pay tv al figlio, compresi video porno con i fondi aziendali. Tutto questo sarà oggetto della rubrica, ahimè, del venerdì. Faccio solo notare che ieri nell'annunciare le sue dimissioni dopo 17 anni, ma non è che il problema torni sempre ad essere la permanenza di questi manager troppo a lungo, valeva anche per Ciucci, non voglio commentare oggi Ciucci, e vale anche per Norberto Achille. Mi limito a far notare che nella lettera che ha scritto a mano rassegnando le dimissioni ha detto di essere che lascia con sofferenza e con rammarico. Sì, la sofferenza e il rammarico è anche dei passeggeri delle Ferrovie Nord in questi anni, che hanno visto un servizio tutt'altro che di primo livello, mentre appunto al presidente non bastavano le due auto, i due autisti, i due 275 mila euro annui di stipendio, la carta di credito dai poteri sconfinati e quant'altro. Per cui il rammarico, diciamo, di Norberto Achille non so quanto sia condiviso dai clienti delle Ferrovie Nord, che sono sofferenti e rammaricati da anni, ma per motivi diversi da quelli di Achille. Una roba da pazzi. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo sul meteo e la pubblicità, poi tutto il settore dell'automotive in lento e faticoso recupero, poi la borsa, la scuola, i dettagli della riforma e chiaramente anche la mega sanzione delle autorità americane alla banca UBS. State ascoltando un programma offerto da Risparmio e Trading a Rimini, 21-22 maggio, itforum.it, è gratis. Focus Economia. Are you with me? Are you with me? Allora, di nuovo in diretta qui da Bologna all'Autopromotech. Vedo molti messaggi sul tema del presidente che si è dimesso in mezzo travolto dagli scandali di Ferrovie Nord. Ho già detto che ne parleremo venerdì. Ma cosa volete che aggiunga quando uno colleziona 125 mila euro di multe fatte soprattutto da quelle che era inchiesta PM dai figli a cui dava le BMW che spettavano a lui? Cioè, ma era protetto politicamente, chi l'ha tenuto per 17 anni il presidente delle Ferrovie Nord? Formigoni? Così scrivono i giornali, così immaginiamo noi, visto che il Celeste era il capo della regione Lombardia per tanti anni. Dopodiché, cioè, la cosa che impressiona è, diciamo, la faccia di Tolla che di fronte a queste accuse Norberto Achille si permette di scrivere lascio con rammarico, lascio con sofferenza. Le accuse sono pesantissime perché riguardano malversazioni non compiute per lui ma girate ai figli, comprese le carte di credito, comprese le multe. Ma come si fa a fare 125 mila euro di multe? Cioè non è, cioè, no? Sbattendosene completamente di tutto. Venerdì, vediamo che punto, che posizione avrà della nostra classifica Norberto Achille, anche perché appunto le Ferrovie Nord sono un modello di efficienza, chiedere ai pendolari. Andiamo avanti con il resto. Allora, parliamo di un settore che si sta lentamente riprendendo e il cui valore per l'economia italiana è fuori discussione, mi riferisco a tutto il settore dell'automotive, non solo l'auto. Il nostro ospite oggi, l'amministratore delegato di Autopromotech, Renzo Servadei, buonasera. Buonasera a voi. Allora, è la 26esima biennale internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico, praticamente tutto ciò che ha a che fare con la vita di un veicolo dopo che è stato venduto, diciamo, al primo proprietario. Questo è l'aftermarket. 1600 quasi espositori provenienti da 47 paesi e tra l'altro il 42% del totale sono aziende estere, con Cina, Germania, Gran Bretagna, Taiwan, Polonia, Stati Uniti. Un numero di espositori che è praticamente raddoppiato rispetto, anzi più che raddoppiato rispetto al 2013, visto che l'appuntamento è biennale. Le chiedo, qual è il polso che si respira oggi tra tutto il mondo dell'indotto? Ieri abbiamo commentato dei dati sulle immatricolazioni europee in crescita del 7%, con un buon dato per Fiat, Chrysler, che ha doppiato questa cifra, quasi al 13,4% della crescita. Questo poi si nota, si registra una ricaduta in tutto il mondo dell'indotto che gira attorno all'auto? Assolutamente sì. Noi stamattina dicevamo che parlare di ripresa senza punto interrogativo porta un pochino sfortuna. Noi che non siamo scaramantici diciamo che la ripresa c'è nel settore più importante, perché ricordiamo che l'automotive complessivamente è il più grande datore di lavoro italiano, perché sono addetti, secondo dati Anfia, complessivamente 1.200.000 persone. Qualcuno diceva che quando corre l'auto corre tutta l'economia e noi già in questo quarter registriamo dei segnali di ripresa importanti sia sul mercato italiano ma soprattutto sul mercato internazionale, perché in Italia abbiamo una fortissima concentrazione di produttori che esportano tantissimo, quindi ripresa interna ma anche ripresa delle esportazioni molto importante, anche favorita dal più ragionevole cambio del dollaro sostanzialmente. Ecco, come quote di esportazione per la componentistica, qui non stiamo parlando dell'auto fatta e finita, ma di tutte le componenti che ci sono in un'auto. Per esempio sappiamo che il gruppo Volkswagen sta utilizzando moltissimi fornitori e subfornitori italiani nel Piemonte, che prima avevano come unico cliente Fiat, questo per farsi capire. Allora, l'export nel 2014 è rimasto fermo a quasi 19,3 miliardi, avete un 70% dell'export nell'Unione Europea, con la Germania primo mercato con 2 miliardi e 640 milioni. Vorrei capire come sta andando adesso tutto il settore della componentistica, ma anche appunto il cosiddetto aftermarket, che è la componentistica non destinata al primo impianto, e le auto-officine, di cui ci occupiamo poco, pochissimo ahimè, ma che hanno avuto una vera e propria emorragia in questi anni di crisi, a migliaia hanno chiuso. Vorrei capire se lì, in quelle che sono rimaste aperte e vive, si nota un segnale di risveglio. Sì, la domanda è estremamente pertinente, perché quando si parla di auto noi pensiamo subito alla macchina nuova, però già il passaggio successivo che lei ha fatto, cioè pensare che magari una macchina tedesca, una macchina francese fatta con il 30% magari di componenti fatti in Italia, è già un discorso molto molto importante. Noi abbiamo delle multinazionali che decidono di costruire in Italia perché abbiamo dei distretti industriali con della subfornitura, delle tecnologie e dei brevetti italiani, che poi vengono, diciamo, diventano il cuore di macchine magari tedesche o di altri paesi. Il discorso il successivo passaggio, il discorso dell'aftermarket, sta diventando estremamente importante. Prima vedevo dei dati che, per esempio, negli Stati Uniti oltre il 60% dei revenues di una concessionaria deriva proprio dalla riparazione, mentre in Italia siamo ancora a dei livelli molto molto più bassi. Ovviamente adesso, estremizzando, ovviamente è un concetto molto estremizzato, però serve per far capire agli ascoltatori: la macchina sta sempre più somigliando ad una stampante sostanzialmente, si guadagna pochissimo vendendo la stampante, però quello che crea sostanzialmente un guadagno, un valore aggiunto, è tutta l'assistenza, che ovviamente deve essere un'assistenza precisa, di qualità, adeguata alla tecnologia. Ora, è vero che le officine stanno cambiando, anche perché il vecchio meccanico di Lucio Battisti, io e lei abbiamo più o meno la stessa età, ci ricordiamo quel gran genio del mio amico che faceva col cassavite i miracoli non si fanno più, occorrono dei tester, occorre tecnologia, occorre accesso a banche dati, occorrono tutte queste cose. Quindi si sta trasformando, il vecchio meccanico non esiste più, esiste un meccanico sempre più informatizzato, quindi una grande opportunità di lavoro, un'opportunità di lavoro anche gratificante per le nuove generazioni, che sono sempre molto più attende a questo tipo di opportunità, e il settore è anche abbastanza anticiclico, cioè nel senso, se si vendono macchine nuove ovviamente chiaro, abbiamo una necessità. Quindi un settore che, pur con le difficoltà, sta reggendo, e pensiamo che abbia anche delle opportunità di ripresa nei prossimi mesi. E da lì appunto il fatturato delle auto-officine, che è tornato a crescere l'anno scorso del 2% dopo cali significativi, pensiamo almeno 10% nel 2012. I dati sul traffico in autostrada, importanti più che per voi per capire come elemento, come indicatore empirico, se ci sia un po' di ripresa o no, perché è inutile girarci attorno, ma più aumenta il traffico autostradale e più l'attività economica vuol dire che è in ripresa, sono leggermente in aumento. I milioni di veicoli chilometro percorsi sulle autostrade italiane sono cresciuti anche l'anno scorso di un punto percentuale sul 2013. Le chiedo che cosa manca ancora al settore, e anche luci di quello che è emerso nella prima giornata di incontri e di lavori, quali sono le fragilità persistenti? Ma noi abbiamo lanciato un brand che si chiama Autopromotech Edu. Noi pensiamo che forse la tecnologia è andata talmente avanti che non tutti sono in grado di comprendere appieno e maneggiare la tecnologia. Un po', se facciamo sempre anche qui un esempio, quello dei cellulari, se io ho l'ultima generazione dello smartphone ma lo utilizzo semplicemente per telefonare, evidentemente non è tutta tecnologia sprecata. La tecnologia veicolare è andata estremamente avanti, è importante che insieme alla tecnologia anche la formazione, quindi qui c'è un grande lavoro sia dei costruttori ma anche delle scuole, delle università, cerchi di far sì che la formazione degli operatori sia al pari passo con quella, diciamo, della innovazione tecnologica, se vogliamo veramente che il settore possa avere un futuro radioso e non un futuro di mera sopravvivenza. E noi, come per tutti i settori produttivi di questo paese, ce lo auguriamo, e quindi in bocca al lupo per le prossime giornate di lavori che Radio 24, ripeto, seguirà anche con altri programmi e altre dirette. Grazie intanto all'amministratore delegato di Autopromotech Renzo Servadei. Grazie a voi. Adesso andiamo verso la borsa, comunque confermo, girando anche per questa fiera, la forte presenza di operatori stranieri. Andiamo verso la borsa, c'è un caso che già era ben presente in apertura del programma, ma lo è diventato ancora di più: Monte dei Paschi, sospeso, se ho ben visto, per eccesso di volatilità nell'asta, ha perso nel finale il 6,50%, qui ci avviciniamo all'aumento di capitale. Però insomma, da qui a spiegare perché il Monte dei Paschi perda il 6,5% ce ne vuole. Azimut invece ha un collocamento a sconto del 5% e oggi perde il 5%, Autogrill meno 2,20%. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, 17:48 minuti, Monte dei Paschi in primo luogo e poi il resto della borsa. Ripeto, un po' di pazienza sul caso di Achille, ex presidente delle Ferrovie Nord, non posso fare la puntata su questo. Allora, Guido Maurino, non oggi almeno, Guido Maurino, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Sento un po' basso Maurino, ma siamo qui in esterna a Bologna, forse c'è qualche livello un po' basso nel collegamento. Partiamo dal Monte dei Paschi, perché è vero che c'è l'aumento di capitale, però insomma il titolo è peggiorato, è andato in asta di volatilità proprio nel finale, Guido. Sì, il titolo è peggiorato, è andato in asta di volatilità, però le ragioni che spiegano questo andamento negativo sono soprattutto quelle delle possibili speculazioni sul prezzo dell'aumento di capitale che sarà deciso domani e in parte anche sulle mosse della Fondazione Senese, che ancora non ha chiarito nel dettaglio cosa intende fare. Il titolo d'altra parte è sceso molto proprio nell'ultimo periodo, al di là del meno 6,5 di oggi. Se guardiamo l'andamento degli ultimi 10 giorni possiamo vedere come abbia perso circa il 18%. Del suo valore, sì. E domani sapremo, l'ultimo prezzo è a 9,67 euro per quello che riguarda l'azione del Monte dei Paschi. Ancora oggi Azimut perde il 5%, qui in realtà il calo, pur essendo molto significativo, è più giustificato e razionale dopo il collocamento a sconto. Sì, diciamo che è quello che vediamo spesso quando ci sono dei collocamenti a sconto, che il giorno dopo il titolo soffre. Si guarda anche in prospettiva, perché questo potrebbe essere solo una prima tappa. In base alle regole che si sono dati i soci di riferimento di Azimut, infatti potrebbe avvenire anche nei prossimi mesi ulteriori collocamenti fino all'11% del capitale, per cui il mercato sta anche guardando in prospettiva se potessero esserci altre operazioni di questo tipo, con un rischio, come dire, di eccesso di titoli sul mercato. Ancora, per quello che riguarda gli indici, devo dire che oggi, al di là di quello che stiamo commentando, potrebbe non sembrare, ma gli indici erano tutti abbastanza vicini alla parità, più 0,25% alla fine Milano, invariato Francoforte, anche l'America meno 0,16, euro su dollaro a 1,10, per cui poi dentro gli listini i movimenti ci sono stati, ma non, questo non si evince dall'andamento degli indici complessivi. Dicevo, tornando invece ai titoli, bene ST Microelectronics più 2,12, ma soprattutto bene XOR, sì, per più 2%. Vai. Sì, per quello che riguarda ST Microelectronics è un andamento un po' positivo di tutti i titoli che fanno microchip, l'abbiamo osservato oggi sui mercati senza una particolare ragione. Per quello che riguarda invece XOR, che ho già guadagnato il 2%, c'è stata l'apertura da parte di Partner Re all'acquisizione da parte della holding di Casagnelli, oggi un comunicato del riassicuratore americano che è uno dei target individuati da XOR, su cui appunto ha fatto un'offerta, ha aperto la porta dicendo che sono pronti a valutare con XOR questa acquisizione, però hanno anche chiesto che venga riconosciuto un prezzo più alto da parte appunto della holding, per cui da un lato c'è una notizia comunque positiva che è questa apertura fatta dal CDA, d'altra parte c'è l'incognita del prezzo perché ancora la valutazione non soddisfa il CDA della società americana. Poi per quello che riguarda invece altri titoli, bene Enel più 1,40%, TOZ più 1,20%, devo dire che TOZ era molto calata in queste ultime settimane. Sì, diciamo che dai calcoli che sono stati fatti negli ultimi tre mesi aveva sottoperformato del 17% l'indice FTSE MIB e del 13% l'andamento dei competitor, quindi delle altre società che operano nel settore del lusso. Oggi ci sono state un po' di ricoperture anche perché gli analisti hanno iniziato a calcolare che a questi prezzi il titolo è in linea con le valutazioni delle altre società comparabili e per cui ricomincia a essere un titolo da guardare con più attenzione. E invece male Autogrill meno 2,25, Snam meno 1,60, Unipol 6 meno 1,20 come Atlantia, l'1% lo perde Ferragamo e anche Terna, l'1% è anche il calo di Prismian. Oggi c'era anche il debutto, no, di Bio2 nella farmaceutica, com'è andato? È andato molto bene, il titolo ha guadagnato il 35,7% per questa società piccolina toscana che produce e commercializza dispositivi medici, cosmetici e integratori alimentari. E infatti, non a caso, il miglior titolo oggi in assoluto è proprio Bio2, e beh, insomma, questo veniva abbastanza scontato, 35,77% in rialzo. Poi MP7 Italia più 13,40, Giorgio Fedon, ma ci sono notizie su Fedon che continua a salire da intere sedute? No, al momento non ci sono notizie. Perfetto, beh, se non ci sono non inventiamole, diciamo. Leone Film Group più 8,20, Worldspace più 7,70, IGD più 6, Caltagirone Editore più 4,60. Il fronte opposto invece è rappresentato da Poligrafici Printing meno 7,42% e appunto il Monte dei Paschi meno 6,50, Telecom Italia Media sulle risparmie meno 5,40 e di nuovo Azimut, di cui dicevamo il 5% di calo, Bioera meno 4,60, Prelios meno 3,70, Iniziative Bresciane meno 3,44 percento. Non mi fate notare che non ho dato l'andamento di dollaro e no, del dollaro l'abbiamo dato, del petrolio è stabile a $58.50 al barile, quindi è un livello onestamente sì un po' in rialzo rispetto al a tre mesi fa, ma un livello ancora ben al di sotto dei $100 di buona parte del 2014. Grazie intanto a Guido Maurino, Radio Colle sulle 24 ore. Andiamo con il GR24, poi la riforma della scuola e la maxi multa americana a UBS. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Cuore Denari Expo, 8 profili, 2 coach, un cuoco e un nutrizionista e uno stile alimentare da cambiare. Ma non solo, c'è anche la nostra lista della spesa, ricca delle migliori offerte sul mercato e in linea con un acquisto consapevole e sostenibile, che sono poi le parole chiave di Expo. Il sedentario, l'over 50, lo stressato, la coppia con e senza figli, lo sportivo, il vegetariano, la donna in gravidanza, seguiremo 8 categorie in cui tutti potranno riconoscersi. E allora andate subito a completare il questionario che vi aspetta sul sito di Radio 24. Cuore Denari Expo, ogni mercoledì con Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani dalle 11 alle 12.30 su Radio 24. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Risparmio e Trading a Rimini, 21-22 maggio, itforum.it, è gratis. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta dalla Fiera di Bologna per l'apertura di Autopromotech. Adesso ci occupiamo di scuola. Devo dare però due notizie, ahimè non belle, anzi una che riguarda la scuola e l'altra però riguarda la Grecia, perché poco fa il ministro delle finanze tedesco Schäuble, Wolfgang Schäuble, il falco del governo Merkel, ha dichiarato di non escludere un fallimento della Grecia. E questo lo ha fatto, è tutto da capire se sia tattica, anche se molto diciamo cinica, ma tattica, visto che domani inizia l'Eurogruppo, fondamentale per capire se l'Europa accetterà le riforme proposte dalla Grecia e quindi riaprirà i rubinetti nel giorno in cui Atene ha fatto sapere che comunque, così come stanno le cose, non potrà ripagare il Fondo Monetario a inizio giugno, la tranche che scade a inizio giugno per quello che riguarda il Fondo Monetario è una tranche da 300 milioni, poi ce ne sono altre per 1,2 miliardi entro il 19 giugno, perché deve pagare gli stipendi e le pensioni. Dico questo perché insomma, chiaramente Schäuble la dichiarazione l'ha fatta a mercati chiusi, se ho ben visto, ma sta diventando un caso, anche perché da questo punto di vista, ripeto, non si capisce se sia un modo per arrivare alle trattative di domani in maniera paventando, diciamo, e minacciando la Grecia, oppure sia una dichiarazione un po' improvvida. Per quello che riguarda invece il fronte scuola, di cui parleremo tra un attimo, il sindacato della SNAS ha fatto sapere che si va verso un'azione unitaria sulla scuola e quindi verso il blocco degli scrutini. Ma andiamo con ordine, diciamo, dello scandalo bancario. Le multe che dovrebbero essere in tutto di 5 miliardi e 600 milioni di dollari, quello che pagheranno le 5 maggiori banche al mondo per la vicenda legata alla manipolazione dei tassi di cambio. 4 Citicorp, JP Morgan, Barclays, Royal Bank of Scotland si dichiarano anche colpevoli di aver cospirato per manipolare il prezzo del dollaro e dell'euro. E la notizia oggi diventa anche di cronaca perché, come ricordavamo, c'è stato anche il pagamento, la sanzione di UBS da 545 milioni di dollari. Siamo in collegamento con Mario Platero, corrispondente al Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Mario, buonasera. Eccoci, buonasera, buonasera Sebastiano. Beh, devo dire, la cosa attesa, si sapeva di questo scandalo, non si sapeva dell'entità della multa, 5,6 miliardi di dollari complessivi, con 2 miliardi di dollari soltanto per Barclays, sono chiaramente delle cifre che fanno tremare i polsi, però in qualche modo questo conferma che, è come dire, che il mercato ha i suoi guardiani e ci sono quelli che ci provano, ci sono quelli che naturalmente vanno sempre borderline e quindi si muovono al di là della legalità, come hanno fatto queste banche, poi però vengono beccati. Ecco, qual è il problema? Perché questa è la cosa interessante. Il problema è che a differenza di altri fixing, prendiamo per esempio quello della borsa, sul foreign exchange il fixing di cui parla è un fixing fittizio, e viene così calcolato più o meno tra queste banche, ci sono delle scadenze, una dell'1 e un quarto, alle 4 del pomeriggio, e decidono più o meno dove si va a mettere il rapporto di cambio. Questo gli dà dei margini, soprattutto se si mettono insieme, erano un cartello, venivano chiamati dagli altri la mafia dei cinque, queste cinque banche, e si mettevano d'accordo fra loro per magari guadagnare dei pochissimi centesimi in più o in meno, che però gli portavano dei profitti straordinari, perché tu capisci che i valori cambio foreign exchange sono di miliardi e miliardi di euro al giorno, e quindi basta pochissimo per guadagnare delle cifre spropositate. Ecco, credo che in questo modo però sono stati puniti abbastanza da farli passare la voglia. Il problema qual è? E come risolviamo il problema? Il problema è come risolverlo, questo fatto che non ci sono, che non c'è il fixing. C'è un documento del gruppo del G8, delle otto banche centrali più importanti del mondo, che cercano di dare delle direttive per risolvere questo problema, e ci sono già delle agenzie elettroniche che stanno cercando di inserirsi nel mercato per garantire un fixing. Una di queste, te la cito, è la Curex, che ha un sistema elettronico molto molto interessante di un fixing che garantisce alle banche un fixing preciso, e la stanno lanciando in questo momento sul mercato, e che sicuramente potrebbe essere rivoluzionaria. Per cui il problema c'era, ma c'è adesso l'idea, insomma, il tentativo di risolverlo, questo problema, nel frattempo multe durissime. Ecco Mario, la cosa interessante è anche che in tutti questi casi si tratta di patteggiamenti, cioè le banche hanno preferito venire a un accordo con l'amministrazione, le autorità americane, pur pagando una cifra enorme, perché insomma 5 miliardi e 6 di dollari, 5 miliardi e 600 milioni, di cui appunto 2 miliardi a Barclays, ma 545 milioni a UBS, sono arrivati tramite patteggiamento, cioè missione di colpa. Sì. Beh, il patteggiamento a volte, sì, ci sono delle missioni di colpa, ma la tecnica usata dagli americani è quella di spaventare le controparti, minacciando, se poi vanno al processo, anche non soltanto penalità civili, magari le penalità civili molto molto forti, ma anche delle possibilità di incriminare qualcuno, perché poi lì sai dove parti e non sai dove arrivi. E ti dirò che una volta, parlando con un banchiere importante newyorkese che fu costretto a pagare per conto della sua banca 100 milioni di dollari, mi disse, dice, guarda, io preferisco pagare, in quel caso lui sosteneva non avevano commesso alcun torto, era semplicemente una forzatura delle autorità, e però se fossero andati al processo rischiava che il processo gli costava magari 30-40 milioni di dollari, comunque avrebbero avuto una pubblicità negativa, comunque non si sa mai come vanno a finire queste cose, e quindi hanno preferito pagare. Ecco, quando ci sono le autorità americane di mezzo, come sai, questo è successo in passato anche quando ci furono i conti segreti e così via, le banche patteggiano, pagano, e pagano delle cifre che sono alquanto straordinarie, aiuterebbero una parte del nostro disavanzo, no? Perché se avessimo lo dico perché non c'entra nulla, ma visto che abbiamo appena commentato la settimana scorsa la relazione della Consob, faccio notare che le multe combinate dalla nostra Consob sono calate rispetto all'anno prima. Non c'entra nulla con lo scandalo, ci mancherebbe, dei tassi di cambio, ma è solo per ricordare che in America invece le multe, quando vengono date, sono pesantissime, il che non vuol dire, anzi abbiamo visto tantissimi scandali scoppiare e cattive abitudini e comportamenti nella finanza di Wall Street. Va però ricordato che poi quando intervengono le autorità, intervengono con un manganello o un randello pesantissimo, perché ripeto, stiamo parlando di 5 miliardi e 600 milioni per 5 banche. Ecco, una cosa Sebastiano, loro intervengono, come dici, in modo pesantissimo, però sono attenti a non superare il limite che potrebbe creare difficoltà per le banche, cioè farle fallire. Quindi, le multe sono studiate nel dettaglio, da far male, da far davvero molto molto male. Però poi, diciamo, in qualche modo sono pesantissime. Però se tu pensi, JP Morgan faceva profitti per 5 miliardi di dollari o 4 miliardi di dollari in un trimestre, per cui sì, sono in grado poi di riassorbirla. Ecco, c'è comunque una responsabilità da parte dell'autorità di commisurare la multa alla dimensione e alle possibilità dell'istituzione con cui hanno a che fare, e quindi pesantissime, perché comunque fa molto male e riduce certo. i profitti centrali dalla metà, però sempre facendo attenzione a non creare poi una situazione di crisi per l'istituzione finanziaria. Allora, grazie a Mario per dare il collegamento con noi da New York. Adesso il traffico e dopodiché la scuola, per capire insomma dove si stia concentrando la contestazione. Sì, certo, la chiamata diretta, ma bisogna anche leggere il testo di quanta parte del corpo docenti potrà essere utilizzato per la chiamata diretta da parte del preside, secondo il famoso articolo tanto contestato. Onestamente, lo dico subito, guardando i vari articoli che sono passati nella riforma della scuola, c'è il contestatissimo articolo 9 della chiamata diretta, ci sono però i 500 euro all'anno per la carta elettronica per l'aggiornamento agli insegnanti, c'è l'articolo 13 che instaura un bonus per la valutazione del merito dei docenti, con un bonus che verrà assegnato dal dirigente scolastico sulla base dei criteri indicati dal comitato per la valutazione, 200 milioni di euro stanziati. E c'è anche la possibilità di avere sul modello dell'Art Bonus un credito d'imposta del 65% per quest'anno e del 50% per l'anno prossimo per chi fa delle donazioni in denaro per la realizzazione di nuove scuole. Comunque ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Il preside non ha poteri che siano diversi o inadeguati alla sua funzione, che è quella, lo dice la parola, e le parole non hanno mai una funzione casuale, una semantica casuale, è di dirigere la scuola. Il preside con questo disegno di legge acquisisce gli strumenti per dirigere la scuola, ma si vede al tempo stesso assegnato delle responsabilità che sono valutabili, valutate, e che saranno anche oggetto, già in corso di un processo di controllo e quindi potenziale miglioramento di tutto il sistema, a partire dalla funzione del dirigente scolastico. Io credo che quando gli insegnanti cominceranno a non pensare al loro preside, che magari è un eccezionale leader educativo, ma qualche volta può anche non esserlo, e a pensare invece al modello che cambia mettendo loro come protagonisti di un'autonomia che, anche qui la parola lo dice con chiarezza, significa che la scuola da sola deve fare gli sforzi per migliorarsi, avendone le risorse e avendone gli strumenti. Quando questa apparirà dalla carta della legge una realtà concreta, finalmente, dopo 15 anni, dopo un disegno di legge che aveva già messo questi principi nell'agenda politica di quel governo di centrosinistra, io credo, del 99-2000, io credo che ci sarà un atteggiamento molto molto più positivo. Così il ministro Stefania Giannini nel commentare a caldo lo che è arrivato dalla Camera, il disegno di legge Buona Scuola, quello della riforma scolastica. Eugenio Bruno del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Eugenio, già ieri ci anticipavi alcuni dettagli. Io vorrei tornare su questo, sul famoso articolo 9, perché poi se i sindacati, ripeto, lo SNAS hanno detto che si va verso il blocco degli scrutini, se ho ben capito Eugenio, la cosa, l'elemento più contestato è proprio il potere della chiamata diretta. Quale sarà la quantità di docenti che attraverso la legge, l'articolo 9, potranno essere chiamati con la chiamata diretta, e invece quelli che essendo di ruolo non verranno toccati dalla chiamata diretta? Eugenio. Buonasera a tutti. Allora, come dicevamo ieri, è stata la norma più contestata, ma in qualche modo forse perché la più innovativa, perché si permette per una volta, per la prima volta, a chi in qualche modo dirige l'istituto, di scegliere una parte del suo staff. Questo aspetto non è però, cioè tutta l'importanza, il fatto che il dibattito si sia concentrato su questo aspetto non è suffragato dai numeri, perché se le intere 100.000 assunzioni, questo secondo le stime diciamo del Ministero, consentiranno a ogni scuola di avere l'8% di docenti in più, cioè 7 docenti, e metà di questi saranno docenti dell'autonomia, stiamo parlando di 3-4 docenti a istituto che il preside potrà diciamo scegliere per rafforzare l'offerta formativa, perché la possibilità di chiamata diretta è collegata alla possibilità di flessibilizzare un minimo l'offerta dell'istituto, cioè si danno delle indicazioni su quelle che sono le materie che andrebbero potenziate, da un lato l'inglese, dall'altro la storia e l'arte, viene introdotto per la prima volta il cinema, lo spettacolo dal vivo, si fissano i criteri, la scuola redige il piano, e il piano che non farà solo il preside come era previsto in un primo momento, il preside darà l'indirizzo, poi verrà redatto dal collegio dei docenti, poi verrà approvato dal consiglio d'istituto, quindi che cosa la scuola vuole potenziare lo decideranno tutti, quali docenti, quindi non quanti ma quali per la prima volta scegliere, limitatamente a questo ambito lo deciderà il dirigente scolastico, e non sarà una scelta senza conseguenze, nel senso che verrà poi valutato, perché l'altra innovazione è il fatto che gli ispettori hanno anche un finanziamento più alto, se ben visto dalla legge, gli ispettori che andranno poi a valutare quelle che sono le scelte del preside. Allora, insomma, dalla tua descrizione molto semplice, io capisco due cose e mi interessa poco se non diventerò popolare. Tutta l'attenzione delle contestazioni sindacali in questi giorni si concentra sull'articolo 9, no? Sul fatto che il preside possa chiamare per chiamata diretta una parte minoritaria, tu lo ricordavi, in media saranno 3-4 insegnanti a istituto su dei margini, uno vuole implementare di più l'inglese, ne chiamerà più per l'inglese, oppure per la storia dell'arte, la vuole introdurre, la chiamerà più per quello. Nulla viene detto dei 100.000 precari che vengono, o meglio, non abbiamo visto applausi per i 100.000 precari che verranno assunti a tempo indeterminato a partire dal 1 settembre. Tutti, praticamente quasi tutti gli iscritti nella graduatoria a esaurimento, eccetto i 23.000 maestri dell'infanzia, che potrebbero essere i primi a dover protestare. E a mio avviso, visto che la legge non prevede solo la chiamata diretta, che c'è una stabilizzazione dei precari ma che non sembra interessare, e che si andrà al blocco degli scrutini, che frega nulla che ci sia la card da 500 euro all'anno, che frega nulla che vi siano i 200 milioni stanziati per dare un bonus di merito ai docenti, che è giusto, io continuo a ritenere che di fondo e sullo sfondo di questa protesta vi sia il rifiuto, al di là delle parole, dei principi del merito introdotti anche nella scuola, perché sennò tu dovresti avere una protesta più articolata che dice bene alcune cose ma o ci convincono meno altre. Continuare a scrivere come fanno alcuni, il preside a quel punto farà scelte solo sulla base della convenienza, del sesso e di quant'altro, significa dire sostanzialmente che non esiste in questo paese, o praticamente sono rarissimi, presidi che sanno fare il loro lavoro. Che mi sembra anche un po' forte da parte di chi lavora nel mondo della scuola, perché vuol dire ammettere che la scuola è un tale livello di sfascio che diamo già per scontato che tutti i presidi faranno chiamate dirette in maniera assurda e non seguendo dei principi di logica. Anche se abbiamo spiegato, e tu l'hai rifatto oggi, che poi verranno valutate queste chiamate, queste scelte, e significa anche che non frega nulla del bonus per la valutazione del merito dei docenti, e significa sostanzialmente respingere il principio del merito, cioè che ci possa essere una valutazione a chi dare un bonus e la valutazione su quale insegnante, di quale insegnante io ho bisogno. Ecco perché ritengo che la protesta sia una protesta di retroguardia, grazie a Eugenio Bruno per averci raccontato anche i dettagli, che non si capisca la proposta alternativa, che si parli di una scuola di adesso come se fosse una scuola ben funzionante, è un grande modello, non una scuola disastrosa perché non premia i meritevoli e non colpisce e punisce gli insegnanti e anche i presidi fancazzisti o poco produttivi, e del tutto ignorando quello che poi è l'ultimo obiettivo, cioè gli studenti li stiamo formando o no? Oppure, torno a dire come ieri, i figli dei ricchi hanno sempre più vantaggi perché possono andare nelle scuole con maggiore formazione e di nuovo questo va a danno delle classi meno abbienti. Ecco, le proteste di sinistra dovrebbero partire da questo, non dalla tutela tout court di una scuola che fa acqua da tutti i pori, grazie anche al ruolo dei sindacati che mai poi nel concreto vogliono introdurre il merito. Al di là delle parole, aspettiamo ancora un segnale di introduzione del merito vero, cioè si premia qualcuno e si punisce qualcun altro. Grazie Eugenio Bruno, domani ci occuperemo anche di Grecia. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata a voi in ascolto. Radio 24, la passione si sente.